Buongiorno e benvenuti. Una buona e bella notizia già ve la posso dare. Siete nel posto giusto. Siete nel posto giusto perché qui insieme noi possiamo sperimentare la presenza del Signore. Il Signore è con noi. Il Signore è con noi. Gesù è veramente con noi. Gesù è veramente qui con noi perché Lui ci ama e lo ha detto. Perché dove si radunano nel suo nome, Lui è in mezzo e noi lo crediamo e Lui vuole operare in mezzo a noi. Anzi, questa mattina quello che farò, leggendo la parola di Dio, voglio mostrare in maniera molto semplice che cosa Gesù è venuto a fare. Perché Gesù è venuto? E leggo dall'Evangelo di Luca, al capitolo 4, dal verso 16. È all'inizio del ministero di Gesù, quando incomincia a muoversi, è come anche ognuno di noi, i sentimenti di Gesù sono gli stessi, i nostri. E quando Lui incomincia a predicare, a che cosa pensa come prima? Pensa al suo paese natio, dove è stato allevato, pensa a Nazareth e si reca a Nazareth. È scritto proprio questo, dal verso 16, si recò a Nazareth, dove era stato allevato. E come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista e rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. E chiuse il libro. Ora, vedete, Gesù non era un libro come il nostro dove tu lo apri a casaccio, erano dei rotoli che tu dovevi girare da un lato e dall'altro, e è andato a cercare questo passo specificatamente per dire a noi che perché è stato mandato dal Padre sulla terra, perché è venuto sulla terra per noi. E la prima cosa che Gesù annuncia e dice e confessa è: va bene, lo Spirito di Dio è sopra di me, mi ha unto per annunziare l'Evangelo ai poveri. Ora, quando leggiamo nella Bibbia dei poveri, non indica solo e unicamente quelli che non hanno soldi, va bene, e che sono miseri e poveri da quel lato, assolutamente, proprio anzi il termine povero nella Bibbia ha molto a che fare con chi è afflitto, con chi vive una situazione di umiltà, diciamo così, e chi sta vivendo disagio. E infatti proprio Gesù, un capitolo dopo, nel forse uno dei più bei messaggi che Gesù ha dato, il messaggio sul monte, dice: beati i poveri in spirito. Beati i poveri in spirito. Non sta, dice, che beati vuol dire felice. Vedete, invece dell'infelicità, che è il termine povero, Gesù dice proprio felice chi è povero nello spirito. E qui ha a che fare con il cuore, ha a che fare con il nostro interno e non tanto con quello che possediamo o non possediamo. Quindi Gesù è venuto proprio per chi vive delle situazioni particolari, di afflizione, di infelicità, situazioni non belle. Gesù è venuto per quelle persone. È venuto, perciò io posso dire, è venuto per me. Ma è venuto anche per te. È venuto anche per te. È venuto proprio per mettere fine a queste situazioni. È venuto per mettere la pace proprio a queste situazioni. È venuto, è scritto, annunciare l'Evangelo, dare l'Evangelo. Ora, Evangelo, noi, molti di noi lo sanno che Evangelo significa, molto semplicemente, significa buona notizia. Questo termine veniva usato quando un re ritornava dalla guerra vittorioso, allora si annunciava l'Evangelo, cioè la buona notizia della vittoria. E Gesù è venuto per annunziare, per dare la buona notizia. Però la domanda che ci dobbiamo porre noi è: ma quale buona notizia è venuto a portare? Perché Gesù non è che è venuto a dire semplicemente: beh, auguriamoci che, speriamo che tutto vada bene, come quando noi ci incontriamo e ci salutiamo e qualcuno ci racconta qualcosa, la frase più eclatante che abbiamo: beh, speriamo che poi alla fine tutto va bene. Non è venuto per questo Gesù, non è venuto per dare semplicemente una speranza o un augurio. Lui è venuto per dare l'Evangelo. E se io devo definire l'Evangelo in una parola, in un termine solo, l'Evangelo è la croce. L'Evangelo è la croce. Gesù è andato alla croce per me e per te. E sapete perché è andato alla croce? Non per supplizio o per martirio o per qualsiasi altra cosa. È scritto chiaramente che alla croce Gesù ha portato il mio peccato e lo ha inchiodato lì. Gesù alla croce ha portato le mie afflizioni e le ha inchiodate lì. Gesù alla croce ha portato le mie infermità, le mie malattie e le ha inchiodate lì. Gesù ha messo tutto alla croce, per la croce e per la croce, per il mio cuore che si apre alla croce, all'annunzio del Signore Gesù per me. Allora, Evangelo, sapete che cosa vuol dire? Per me personalmente, ma credo anche per tutti quanti noi, vuol dire risurrezione, vuol dire vita, ricevere una nuova vita, se la vogliamo dire in termini moderni, è una nuova opportunità di vita. Senza tutte le brutture che il diavolo ha potuto causare nella nostra vita. Alla croce Gesù li ha inchiodato e ci ha dato una nuova opportunità. Attraverso che cosa? Ecco l'Evangelo che è pratico e non è solo una buona notizia, attraverso il perdono. Gesù è venuto per farci vivere il perdono. Vogliamo usare un termine moderno? Condono. Molti di noi aspettano un condono. Quando si è fatto un abuso edilizio o non si sono pagate tutte le tasse, allora la speranza è: speriamo che viene un condono. E condono che cos'è? Condono è perdono, ma devi pagare una tassa. Cioè, hai fatto un abuso edilizio? Va bene, lo Stato ti dice: io ti perdono, lo lasciamo stare questo che hai fatto, però devi pagare una tassa. Il perdono di Gesù è lo stesso. Il Signore è andato alla croce per perdonare te e me, però devi pagare una tassa. Che cosa devi dare? Se vuoi sperimentare realmente il perdono di Gesù, se vuoi vivere il perdono di Gesù nella tua vita, allora gli devi dare tutto il tuo peccato. Allora gli devi affidare tutte tutte le tue afflizioni, tutte le tue ansietà, e Lui è questo, a questo può dare nuova vita. Questo è quello che il Signore vuole da noi come tassa. Se noi siamo disposti a dare a Lui questa tassa, Lui è in grado di rinnovare, di dare una nuova opportunità, di ristabilire ogni cosa. Infatti Gesù fa anche dei giochini con le parole. Vi leggo dall'Evangelo di Giovanni, al capitolo, vedete quello che dice, fa un po' un gioco, come un indovinello. L'Evangelo di Giovanni, al capitolo 12, il verso 24 e 25, è scritto: in verità vi dico, che se il granello del frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. E dice, deve morire. Come? Morire per... Però noi comprendiamo che cosa vuol dire. E poi continua a dire, chi ama la sua vita, la perde. Chi ama la sua vita la perde. E chi odia, incredibile, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Non vi sembra un indovinello che Gesù ha fatto? Cioè, devi morire per vivere. Devi odiare la tua vita per ricevere vera vita, ed è reale. Noi dobbiamo scartare, togliere via, mettere da parte, affidare a Gesù tutto quello che ha causato sofferenza e dolore nella nostra vita per sperimentare quella che è la sua vita dentro di noi. Questo è l'Evangelo. Questo è l'annunzio che Gesù è venuto a fare, ma non semplicemente annunzio, è andato alla croce, e non semplicemente perché è andato alla croce, Lui è risorto e ha detto: quelle cose non vi appartengono più. Perciò questa mattina, ecco perché io dicevo, sei nel posto giusto, ascolta e dai retta alla parola di Dio. Sapete, Gesù dove è andato ad annunziare questo messaggio? A Nazareth, cioè la sua città natale. E non so se molti di noi hanno letto e conoscono questa storia, ma sapete che cosa è successo? Che proprio quelli di casa sua, proprio i suoi parenti, proprio i suoi concittadini non gli hanno creduto. Non gli hanno creduto, non lo hanno accettato e non hanno sperimentato guarigione. Infatti, di tutti i posti dove Gesù è andato, e Lui è andato in largo e lungo per tutto Israele ad annunziare e a guarire i malati, l'unico posto dove non è accaduto nemmeno un miracolo è Nazareth. L'unico posto dove non accade nemmeno un cambiamento o un miracolo è quel cuore incredulo. Perciò l'unica cosa che noi abbiamo da fare, fratelli e sorelle, è togliere l'incredulità dal nostro cuore e sperimentare quello che Gesù è venuto a fare, a annunziare la croce, cioè la risurrezione a tutti quanti noi. Per questo noi abbiamo da lasciare. Lascia, non è una perdita, è un guadagno. Perciò prendiamo l'esempio di Gesù, che l'ha fatto così in maniera forte e eclatante. Se tu prendi un chicco di grano, lo butti nella terra, praticamente questo muore, si sfalda, in un qualche modo si possiamo dire si marcisce, però è proprio quella muffa, è proprio quell'umidità, è proprio il fatto che la scorza si sfalda che poi viene fuori il germoglio, perché dentro c'è la vita. Ma se tu quel chicco lo tieni in bella mostra sul tuo armadio, che cosa succede? Niente. Chicco era, chicco rimane e nel tempo diventa polvere. Quel chicco che è morto, che è andato sotto la terra e che si è sfaldato e si è rotto, ha portato il germoglio, dal germoglio la spiga. La spiga vuol dire tanto frutto. Questo è quello che il Signore vuole da noi oggi, in questa società, in questo mondo. Quando ci lamentiamo di quello che viviamo intorno a noi, quando ci lamentiamo e della politica e delle tasse e del lavoro e di ogni cosa che non c'è, e quindi noi ci affidiamo a quello che è il nostro lamento come unica arma di rivalsa, come unica arma di ribellione, Gesù dice: vieni a me. Le tue sofferenze le ho portate io sulla croce. Apri il tuo cuore, metti a disposizione di Gesù tutto quella che è la tua sofferenza. Questa è una sfida questa mattina, questa è una sfida per ognuno di noi, nel senso che fai la prova. Io credo che ne hai fatto tante di prove nella tua vita, sei andata a destra e dove non siamo andati. Per le nostre infermità siamo disposti a tutto, a viaggiare ovunque, e Gesù ha detto: io guarirò le tue infermità. E io posso fare anche una cosa: quanti di noi alziamo la mano anche per vedere, così è a mo' di testimonianza. Quanti di noi hanno sperimentato da parte del Signore Gesù una guarigione? Io ho alzato tutte e due le mani. Ho sperimentato tanta guarigione. E perché il braccio non me lo guarisce ancora? È reale, mi fa male il braccio. E perché non me lo guarisce ancora? Sapete perché? Sapete perché? Perché devo togliere il perché. Nel momento in cui io riesco a togliere il perché, e cioè l'incredulità, o il Signore ha libertà di operare anche ulteriormente nel mio braccio. Perciò, e io ho parlato di una infermità, e se io parlassi e dicessi, chiedessi, cioè, quanti di noi hanno sperimentato una liberazione da una oppressione tipo paura, ansia, timore per il futuro? Posso vedere le mani? C'è chi alza tutte e due le mani. Gloria a Dio, gloria a Dio. Vedete? Quando gloria a Dio, e c'è chi saluta. Bellissimo. È vero. Questo il Signore fa ancora oggi. Nel 2015, sì, nel 2015. Perché? Semplicemente perché Lui è vivo. Non è una religione. Gesù non è venuto per fondare una religione. Gesù non è venuto per portare una nuova religione. Gesù non ci ha chiesto di metterci insieme per formare una liturgia, una religione, un bel palazzo, quello che noi vogliamo. Gesù è venuto per annunziare la salvezza delle anime di tutti quanti noi e per farcelo sperimentare in questa società, oggi, in tutte le situazioni. Il Signore lo vuole fare questa mattina, nella tua vita, al di là di ogni cosa. Io voglio concludere. Avrei dovuto, a dire il vero, vediamo stasera se lo faccio, avrei dovuto parlare di, e infatti l'ho preso di sprovvista, perché ho detto: tu vieni, lui viene sempre per concludere, sai, farci vivere quell'atmosfera di preghiera, è così bello, è così bello. E mi chiede sempre, con tanta dedicazione, dice: a che punto posso venire? E io ho detto: quando parlerò che Gesù guarisce i ciechi, e non abbiamo parlato. E va bene, lo vuol dire che lo faremo questa sera, ma abbiamo parlato di quello che Gesù vuole fare questa mattina nel cuore di ognuno di noi, perciò ci vogliamo affidare a Lui. Io vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi e vorrei fare una preghiera per tutti quanti noi, affinché noi, più che vedere l'effetto di quello che Gesù è venuto a fare in... E come vi devo chiamare? Veramente in questi esempi per noi. Ma lo vedete quanti giovani sono? Quanto giovani sono? Oggi, in questa società, dove i giovani fanno di tutto e di più, loro hanno scelto Gesù. Dove i giovani prendono posizione contro la loro vita, contro la loro famiglia, contro la società, rovinandosi e guastando la loro vita, loro hanno scelto Gesù e lo vogliono anche testimoniare. Non è questa l'opera meravigliosa di redenzione, di vita e di salvezza che Gesù è venuto a portare? Amen. Signore, vogliamo venire davanti a te dicendo innanzitutto, Signore, grazie. Grazie che sei venuto per me e che ero veramente perduto in tutte le mie sofferenze e tu mi hai riscattato e tu mi hai liberato. E io chiedo questa mattina a quanti stanno gridando in questo momento a te, stanno rivolgendo il pensiero a te, oh Signore, stanno aprendo il loro cuore a te, per piacere intervieni in questo momento e libera e sana e salva e dai l'amore tuo. Signore, io invoco la benedizione non solo per chi si battezza questa mattina, ma per tutta la tua Chiesa, affinché la tua parola può essere il nostro modello di vita. E ti ringraziamo e ti lodiamo, Padre, in Cristo Gesù. Amen. Amen.